La scimmia è golfo vonerre. 27 novembre. Quella bestia si avventò su di me. Non mi potei difendere, però non volli schiaffeggiarla di nuovo. Sentivo i vermi sulla sua pelle viscosa. Cosa terribile. Finalmente mi lasciò. Io voglio che tu parli. Perché hai fatto di nuovo così? Allora gridò, io brucio, ricorda, crucior in ac flamina del Vangelo. Io, che cosa ti posso fare? Lui, acqua santa. Allora gli ho dato quantità di acqua santa e come già l'altra volta era successo nemmeno una goccia cadde sul pavimento. Allora mi guardò con gratitudine e incominciò a piangere. Io, ma dimmi una buona volta chi sei? Lui, e golfo vonerre, io, allora tu sei vissuto qui? Lui, vissuto e peccato. Io, chi hai ucciso? Lui, la Susanna. Io, qui? Lui, no. Io, però hai pure peccato ancora qui? Lui, i peccati brutti. Io, adesso il tuo dolore presente ti serve ancora? Lui, no. Io, sei rimasto sempre in questa casa in questo stato per tutto questo tempo? Lui, no dopo le tenebre. Io, che cosa intendi dire per tenebre? Lui, l'allontanamento da Dio. Io, allora adesso sei più vicino? Lui, sì. Io, ma dimmi ancora, subito dopo la morte dove si arriva? Lui, prima il giudizio. Poi il castigo. Io, allora ti sei trovato davanti al buon Dio? Lui, ho adorato, poi sono precipitato. Io, sai con che cosa io ti posso salvare? Lui, sì, io, con che cosa? Lui, rinuncia ad ogni gioia. Nota. Il direttore spirituale della principessa scrive a questo punto. Per quanto riguarda la gioia, dissi alla principessa, che gli spiriti non avrebbero nessun diritto di chiedere una rinuncia a tutte le gioie. Essi lo farebbero comunque solo perché spinti dalla loro miseria e dalla loro condizione dolorosa. Io, dopo non verrai più da me come una scimmia? Allora mi diede una sberla sulla testa e disparve. Rinunciare alle gioie non è per niente facile, proprio perché tutto mi è gioia, e allora dovrei uscire completamente da me stessa. 28 novembre. Mi pare che la sua mano sia intrisa di sangue. Io? Perché sanguini? Lui, il mio peccato. Io? Non è stato in seguito a un accordo che tu hai commesso l'omicidio? Lui, no. Te lo devo dire. Io, chi era questa Susanna? Lui, una bambina innocente. Io, non voglio saperne altro dei tuoi peccati. Allora incominciò a urlarmi contro, mi graffiò il braccio e disse una parola, che non potei capire. Capito solo, omitish, omosessualità. Deve essere stata una vera lotta per lui dirmi queste cose. Perché dopo cadde per terra e incominciò a sospirare e gemere. Dopo che gli ebbi dato l'acqua santa egli si calmò un poco, rimase però tutta la notte da me. Poiché il sonno costituisce per me una vera gioia, forse lui ha voluto costringermi a sacrificarlo e così gli dovetti dare quello che non gli avrei dato altrimenti. È le 8 dicembre. Non ho più scritto niente, perché non fu più possibile alcun discorso. La scimmia divenne una bestia furiosa, e se ho fatto del mio meglio per lei, lo fu più per paura che per amore. Ho vissuto cose terribili, per esempio essa vuotò la sua pelle scrollandone fuori i vermi sul mio letto. Credetti di morire per lo spavento e il disgusto. Quando se ne andò, se ne andarono con lei anche i suoi vermi, E fu per me questo una vera consolazione. Finalmente oggi si presentò in forma umana, è un uomo piuttosto giovane. Egli non ha parlato. Ringrazio Dio, perché ora egli è arrivato così avanti. 23 dicembre. Egli rimase qui a lungo. Adesso non fa più paura, solo i suoi occhi sono ancora pungenti e irrequieti. Io vorrei sapere, come è possibile che voi vi presentiate in forme così diverse? Lui, per permissione di Dio. Tu non puoi vedere l'anima. Io, se tu eri stato tanto tempo vicino a me, perché non ti sei potuto far vedere prima? Lui, io non avevo la capacità di trovare la strada, che è lunga. Io, come hai potuto trovarmi? Lui, sei tu che ci trovi. Io non ne sono d'accordo, perché io mi sento infelice quando voi venite. Lui, la tua anima non parla così. 24 dicembre. Venne spesso durante il giorno, ha pregato volentieri, ma non ha detto niente. 25 dicembre. Fu qui mezza la notte. Io, sai che è Natale? Lui, io posso adorare. Io, non vieni più. Lui, no. Io, allora io devo dirti che ti ho detto una bugia, quando ho detto che ero infelice per il fatto della vostra venuta da me. È piuttosto la tremenda paura, che inaridisce il mio amore, effettivamente io voglio aiutarvi. Lui, ormai non c'è più volere per te, tu devi. Mi sorrise e disparve. Egli era appena partito che stava davanti a me la vecchia stracciaiola in condizioni veramente pietose.